Il terzo anello, ad alta voce. La montagna incantata di Thomas Mann. Subentrarono variazioni regolari della giornata ordinaria. Anzitutto una domenica, e precisamente una domenica col concerto sulla terrazza, che aveva luogo ogni 15 giorni, segnando lo stacco della doppia settimana, nella cui seconda metà Castorp era entrato, venendo da fuori. Era arrivato di martedì, sicché quello era il quinto giorno, un giorno primaverile dopo quel brusco e bizzarro cambiamento e quella ricaduta nell'inverno. Un giorno tenero e fresco, con nuvole pulite nel cielo azzurro e un sole moderato sui versanti e nella valle, che avevano ripreso il regolare verde estivo, perché la neve fresca era stata condannata ad essere rapidamente assorbita dal suolo. Era evidente che tutti si studiavano di onorare la domenica e di darle risalto. L'amministrazione e gli ospiti cooperavano a tal fine, unendo i loro sforzi. I vestiti delle signore avevano un'aria di festosa vaporosità. La signora Chauchat comparve a colazione in un affluente matinée di pizzo con maniche aperte, e mentre la porta vetrata si chiudeva di schianto, si fermò anzitutto quasi presentandosi con grazia alla sala e si avviò poi con passo strascicato verso la sua tavola. La veste le stava così bene che la vicina di Castorp, la maestra di Königsberg, se ne mostrò entusiasta, e persino i barbari coniugi alla tavola dei russi incolti avevano tenuto conto del giorno del Signore, in quanto lui aveva sostituito alla giubba di pelle una specie di giacchetta da passeggio e alle scarpe di feltro stivali di cuoio, mentre lei portava ancora il poco pulito boa di penne, ma sotto una camicetta di seta verde col colletto increspato. Hans Castorp aggrottò la fronte quando scorse quei due e impallidì, come ora si poteva notare di frequente. Subito dopo lo spuntino della mattina la banda cominciò il concerto sulla terrazza. C'era ogni sorta di ottoni e legni che suonarono, alternando pezzi allegri e musica sostenuta, fin quasi a mezzogiorno. Durante il concerto la sedia a sdraio non era rigorosamente obbligatoria. Alcuni, è vero, si godevano la musica dai loro balconi, e anche nella veranda del giardino c'erano tre o quattro sedie occupate. Ma la maggior parte degli ospiti era seduta ai bianchi tavolini sulla terrazza coperta, mentre la gioventù più frivola, cui sembrava troppo serio usare le sedie, occupava i gradini di pietra che scendevano al giardino e vi manifestava molta gaiezza. Giovani malati dell'uno e dell'altro sesso, dei quali Castorp conosceva già la maggior parte per nome o di vista. C'erano fra essi Hermine Klefeld e il signor Albin, che faceva circolare uno scatolone fiorato pieno di cioccolatini e ne faceva mangiare a tutti, mentre lui non ne assaggiava, e con aria paterna fumava invece sigarette col bocchino dorato. Poi il giovane dalle labbra tumide, socio del polmone unico, la signorina Levi, sottile e color avorio, un giovanotto biondo cinerino che rispondeva al nome di Rasmussen e teneva le mani, pendenti come pinne dalle mosce giunture, all'altezza del petto. La signora Salomon di Amsterdam, una donna dal fisico abbondante, vestita di rosso, che si era unita ai giovani, mentre quello spilungone dai capelli radi, che sapeva suonare pezzi del sogno d'una notte d'estate, e ora stringendo fra le braccia le proprie ginocchia aguzze, era seduto dietro a lei, le fissava continuamente con gli occhi torbidi il collo abbronzato. Una signorina coi capelli rossi venuta dalla Grecia, un'altra di ignota provenienza con una faccia da tapiro, il giovanotto vorace con le grosse lenti, un altro di 15 o 16 anni che si era incastrato il monocolo e quando tossicchiava si portava alle labbra la lunga unghia del mignolo, simile a un cucchiaino da sale. Evidentemente un asino perfetto, e parecchi altri ancora. I due cugini avevano un tavolino per sé, un po' discosto dagli altri, perché Castor, bevendo la birra scura che aveva portato con sé dalla colazione, fumava. Ogni tanto il sigaro gli piaceva, accapacciato a causa della birra e della musica, che come sempre lo faceva stare con la bocca aperta e la testa reclinata su una spalla, osservava, con gli occhi arrossati, la vita spensierata che gli si agitava intorno, e non era affatto turbato dal sapere che tutti coloro erano internamente intaccati da una dissoluzione difficilmente arrestabile, e la maggior parte di essi era febbricitante. Anzi, questa consapevolezza creava una maggior curiosità, un certo fascino spirituale. Anche Settembrini comparve più tardi sulla terrazza. Appoggiandosi al bastone da passeggio, veniva dalla sala da pranzo, sempre in giacca di lattina e calzoni giallini, col viso sveglio e critico, e guardandosi intorno si avvicinò con un «Ah, bravi!» al tavolino dei cugini e chiese il permesso di sedersi. «Birra, tabacco e musica!» disse. «Ecco la vostra patria! Vedo, ingegnere, che sente l'atmosfera nazionale. Mi fa piacere che si trovi nel suo elemento. Mi lasci partecipare un po' all'armonia delle sue condizioni di spirito.» Castor ricompose il viso, l'aveva già fatto non appena aveva scorto l'italiano, e disse: «È tardi però, signor Settembrini, per venire al concerto. Deve essere quasi alla fine. Non le piace sentir musica?» «Non accomando», rispose Settembrini. «Non secondo il calendario della settimana. Non mi piace quando puzza di farmacia o mi viene assegnata dall'alto per ragioni sanitarie. Io tengo un po' alla mia libertà, o almeno a quel residuo di libertà e dignità umana che noi altri abbiamo ancora. A queste manifestazioni assisto da ospite, come lei è ospite nostro in grande. Vengo, sto un quarto d'ora e poi vado per i fatti miei. Così ottengo l'illusione dell'indipendenza. Non dico che sia più di un'illusione, ma che vuole. Una certa soddisfazione me la dà. Per suo cugino è un'altra cosa. Lui è in servizio anche qui. Vero, tenente? Lei lo considera una parte del servizio, lo so. Lei conosce il trucco per conservare il suo orgoglio nella schiavitù. Un trucco intricato. Non tutti in Europa se ne intendono. La musica? Non mi ha chiesto lei se sono amante della musica? Ecco, se dice amante, veramente Castorp non ricordava di aver detto questa parola, non ha scelto male l'espressione, che ha quasi un velo di frivola tenerezza. Bene, d'accordo, sono sì un amante della musica, ma non vuol dire che io la stimi granché, come, poniamo, stimo e amo la parola, il sostrato dello spirito, lo strumento, il lucido vomere del progresso. La musica è un che di semiarticolato, di problematico, di irresponsabile, di indifferente. Lei obietterà, suppongo, che può essere chiara. Sì, anche la natura può essere chiara, anche un ruscello. Ma che giova? Non è la vera chiarità. È una chiarezza sognante, nulla dicente, non impegnativa, una chiarezza senza conseguenze, pericolosa perché invoglia ad acquietarsi in lei. Lasci che assuma il gesto della magnanimità. Bene, allora accenderà il nostro sentimento. Importa invece che si accenda la ragione. Apparentemente la musica è tutta movimento. Io però ho il sospetto che si tratti di quietismo. Permetta che riassuma il mio concetto in un'esagerazione. Io nutro un'avversione politica contro la musica. questo punto Castorp non poté trattenersi dal battersi un ginocchio ed esclamare che una cosa simile non l'aveva mai sentita. «La prenda in considerazione lo stesso», suggerì Settembrini con un sorriso. «La musica è inestimabile in quanto ultimo strumento di entusiasmo, potenza propulsante ed elevatrice, quando trova lo spirito predisposto ai suoi effetti, ma deve essere preceduta dalla letteratura. Da sola la musica non spinge avanti il mondo. La musica sola è pericolosa. Per lei, ingegnere, costituisce nettamente un pericolo personale. L'ho notato subito dai suoi lineamenti». Castorp rise. «Oh, signor Settembrini, lei non deve guardare il mio viso. Lei non immagina quanto la vostra aria quassù mi faccia male. Assuefarmi a questo clima mi riesce più difficile di quanto non pensassi. Temo che lei si inganni». «Come? Perché? Lo sa il diavolo quanto sono ancora stanco e accaldato. Penso però che di questi concerti dobbiamo essere grati alla direzione», osservò Joachim riflettendo. «Lei, signor Settembrini, considera la cosa da un punto di vista più elevato. Dirò da scrittore, e qui non la voglio contraddire, ma sono del parere che qui bisogna essere grati di un po' di musica. Io non ho molto orecchio, e poi i pezzi che suonano non sono certo straordinari, né classici né moderni. Sono soltanto pezzi per banda. Sono tuttavia un piccolo diversivo. Empiono decentemente alcune orette. Le suddividono, voglio dire, e le riempiono, sicché qualcosa valgono. Mentre qui di solito non si sa come ammazzare il tempo, le ore, i giorni, le settimane. Vede, uno di questi pezzi senza pretese dura, mettiamo, 7 minuti, vero? Ora essi sono a sé stanti, hanno un principio e una fine, si staccano dal resto e non devono affondare, dirò così, inavvertiti nel solito tran tran. Oltre a ciò sono a loro volta suddivisi nelle frasi del pezzo e queste imbattute, sicché avviene sempre qualcosa e ogni istante assume un certo significato che possiamo seguire, mentre di solito non so se mi sono...» «Bravo!» esclamò Settembrini. «Bravo, tenente! Lei ha indicato benissimo un dato indubbiamente morale della musica. Il fatto di conferire, mediante una misurazione viva e peculiare, presenza, spirito e preziosità al fluire del tempo. La musica sveglia il tempo. La musica sveglia noi al più raffinato godimento del tempo. E in quanto sveglia, è morale. Morale è l'arte in quanto sveglia. Ma se invece fa il contrario, se stordisce, se addormenta, se reagisce all'attività e al progresso, anche questo può fare la musica. Conosce benissimo l'effetto dei narcotici, effetto diabolico, signori miei. Il narcotico è roba del demonio, perché produce stordimento, immobilità, inerzia, servile, ristagno. La musica, signori, mi lascia perplesso. Sono convinto che è di natura ambigua. Non vado troppo oltre se la dichiaro politicamente sospetta». E continuò a parlare in questo modo. E Hans Castorp ascoltava, ma non riusciva a seguire. In primo luogo a causa della stanchezza, poi perché era distratto da quanto avveniva fra i giovani spensierati, là sui gradini. Vedeva bene o si ingannava? La signorina dalla faccia di tapiro stava cucendo al giovanotto dal monocolo un bottone al cinturino dei calzoni sportivi e per l'asma aveva il respiro greve e affannato, mentre lui si portava al labbro tossicchiando l'unghia a cucchiaino da saliera. Erano malati, sì, tutti e due. Ma quello era un saggio delle strane costumanze sociali fra i giovani lassù. La banda suonava una polca. La giornata successiva, cioè il primo lunedì che l'ospite passava lassù, recò un'altra variazione, ricorrente a intervalli regolari, una di quelle conferenze che il dottor Krokowski teneva ogni 15 giorni nella sala da pranzo, davanti a tutto il pubblico del Berghof, maggiorenne, capace di intendere il tedesco, e non moribondo. Come Castorp apprese dal cugino, si trattava di un ciclo di lezioni collegate fra loro, di un corso scientifico popolare dal titolo generale «L'amore come potenza patogena». L'istruttiva conversazione aveva luogo dopo la seconda colazione e sempre secondo le spiegazioni di Joachim non era permesso, o almeno si vedeva molto di malocchio, che uno si sottraesse. Era nota pertanto la inaudita impudenza di Settembrini che, pur sapendo il tedesco meglio di qualunque altro, non solo non assisteva mai a quelle lezioni, ma ne dava i più sprezzanti giudizi. Castorp invece, soprattutto per cortesia, ma anche per schietta curiosità, si risolse subito a intervenire. Prima, però, fece un passo falso e decisamente sbagliato. Gli venne in mente di intraprendere per conto suo una lunga passeggiata che gli fece più male di quanto potesse prevedere. Seguì a sinistra, in direzione del villaggio, un sentiero che procedeva in piano e poi scendeva. Entrò così in un bosco di conifere d'alto fusto e mentre lo attraversava riprese persino un po' a cantare, sia pure con cautela, e nonostante che nella discesa le ginocchia gli tremassero, più stranamente di prima. Ma uscendo dal folto si trovò di sorpresa davanti a un magnifico scenario aperto, a un paesaggio intimamente unito entro una grandiosa inquadratura di pace. Un ruscello alpestre in un letto piano e sassoso scendeva dalle alture di destra. Al di là del ruscello Castorp scorse una panchina, ma si era appena accomodato allorché gli si manifestò un'emorragia nasale, così improvvisa che non poté evitare del tutto di insudiciarsi l'abito. L'epistassi era violenta, ostinata, e lo tenne impegnato per una buona mezz'ora, costringendolo a correre continuamente fra la panca e il ruscello, a sciacquare il fazzoletto, ad aspirare l'acqua e a distendersi sul sedile di legno, il panno umido sul naso. Così stette coricato finché l'emorragia cessò. Ed ecco, a un tratto si sentì trasportato in quella precoce situazione che era l'origine di un sogno sognato alcune notti prima e modificato secondo recentissime impressioni, ed era trasferito in quella lontananza di spazio e di tempo così intensamente, così al completo, fino all'annullamento del luogo e dell'epoca, da far pensare che lassù, sulla panchina in riva al torrente, giacesse un corpo inanimato, mentre il vero Hans Castorp fosse lontano, in anni ed ambiente, da altri tempi, e precisamente in una situazione, per quanto semplice, pur ardita e inebriante. Aveva 13 anni, frequentava la terza del ginnasio, ragazzo in calzoni corti, e stava discorrendo nel cortile della scuola con un altro ragazzo, pressappoco della stessa età di un'altra classe. Il ragazzo col quale Castorp stava parlando si chiamava Ippe e di nome Pšibislav. Biondo era e sul cranio tondo portava i capelli cortissimi, ma gli occhi, di un grigio celeste o di un celeste grigio, di un colore un po' incerto e ambiguo, il colore ad esempio di una montagna lontana, avevano un taglio particolare, sottile e a rigore perfino un po' obliquo, con gli zigomi immediatamente sotto sporgenti e molto rilevati. Un viso che nel caso suo non lo sfigurava affatto, anzi, riusciva piacente, che però era bastato a procurargli da parte dei compagni il nomignolo di Kirghiso. Ora, fatto è che da parecchio tempo Castorp aveva rivolto la sua attenzione a questo Pšibislav. Lo aveva scelto nel brulichio noto ed ignoto del cortile scolastico. Si interessava a lui, lo seguiva con gli occhi, o vogliamo dire lo ammirava. In ogni caso lo guardava con eccezionale simpatia e già per via, mentre andava a scuola, pregustava il piacere di osservarlo in compagnia dei suoi compagni di classe, di vederlo parlare e ridere e di distinguerne fin da lontano la voce, piacevolmente velata, fioca e un po' rauca. Egli spalancò gli occhi, sbalordito dalla profondità della sua lontananza. «Devo aver sognato», pensò. «Sì, era Pšibislav. Non avrei mai pensato di vederlo così chiaramente. Strano come le somiglia a quella quassù. Per questo dunque mi interesso tanto a lei, o forse per questo mi sono interessato tanto a lui. Assurdo, una simpatica assurdità. Ma ora devo scendere, è in fretta». Invece rimase ancora disteso a riflettere e ricordare. Poi si alzò. «Beh, stai bene e tante grazie», disse. E mentre sorrideva, gli occhi gli si empirono di lacrime. Piero Baldini ha letto La montagna incantata di Thomas Mann. Riduzione e regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it